Cioè, ho sempre pensato che ce l'avremmo fatta e quindi ho cercato di concentrarmi sulle cose positive, cioè sulla solidarietà, perché era l'unica cosa bella in quel momento lì, che di altre cose belle non ce n'erano, perché avevamo problemi di tutti i tipi, ma su esigenze primarie. E la cosa bella è stata proprio il fatto che c'era questa grande solidarietà di persone arrivate da ovunque e che volevano dare una mano, che volevano aiutare. Perché comunque quello che si è potuto vedere, quello che abbiamo visto tutti, chi in misura piccola, chi in maniera più grande, è che se abbiamo superato quei momenti è perché comunque tante persone hanno collaborato, hanno messo insieme delle capacità da chi ci ha fornito la possibilità di guardarci dentro e di dire che stavamo procedendo bene, che stavamo andando avanti, che sì, ecco, che eravamo una comunità anche capace, sana. E alla fine, pian piano, la comunità ha visto che c'era la speranza, che il lavoro era comunque rimasto, che c'erano le scuole per mandare i bambini, che pian pianino poi abbiamo avuto anche le strutture sportive, insomma tutto quello che c'era compendio. E in un percorso che oggi, guardando indietro, potrebbe essere durato un giorno, perché è un pezzo di vita difficilissima che però io percepisco come se fosse qualcosa di molto piccolo, non so come dire, brevissima, come fosse un giorno, 2 giorni, cioè, anche se è stata una faticona ed è stato lungo, perché 10 anni sono lunghi, però alla fine questo percorso ha avuto il suo senso, cioè il senso di una comunità che si riprende il futuro, perché quello che abbiamo fatto è stato questo.